coi capelli che le coprivano il volto. Questo perché lei andava a lavorare in questo modo su tre livelli. Il primo, personale biografico, perché lei, donna guatemalteca, all'interno di un contesto machista, senza una preparazione accademica, si è trovata a essere sempre in difficoltà, in una sorta di emarginazione. Da un altro lato, il monumento vivente agli intellettuali e dissidenti di ogni tempo, alla pecora nera, pensiamo appunto alla celebre frase di Pasolini, che disse il giorno prima di essere ucciso, quando parlava delle pecore nere, che lui le vede ovunque, e faceva riferimento anche invece a una citazione di Augusto Monterrosso. E poi il livello invece più reale e concreto, ovvero lei era circondata da delle pecore, quindi da quelli che vengono considerati nella scala gerarchica sociale, gli ultimi tra gli ultimi, coloro che nel grattacielo di Horkheimer troviamo nello scantinato, quindi nel mattatoio che costituisce la base del grattacielo sociale. Ecco, in questo caso poi quello che era successo era che questa performance era mandata in diretta streaming al Macro Testaccio a Roma. Quindi queste pecore salvate dal macello, vive, erano in diretta, la loro voce veniva trasmessa all'interno dei rimessini di un ex mattatoio che ora è un centro d'arte contemporanea. Quindi anche qui in un altro ribaltamento di prospettiva. E la cosa pazzesca era stata la ricezione del pubblico, perché i passanti e le persone che appunto capitavano lì volevano fermare questa diretta streaming, o comunque erano molto contrariate perché dicevano che era troppo violento far sentire la voce degli animali vivi all'interno di un ex macello. Questo secondo me significava che davvero era un'azione che era andata a lavorare in maniera sostanziale. Ecco. Questa era per Rave 2014. Questo è un libro appena pubblicato, Elephant Woman Song. È un libro che ha una duplice prospettiva. Da un lato ci sono una serie di dipinti miei che ritraggono elefanti e dall'altro c'è una narrazione poetica di una mia cara amica che è una poetessa sudafricana, Natalia Molebazzi, ed è una delle maggiori voci della poesia del post-apartheid. Nel 2008 io ho fatto un lungo viaggio all'interno del Serengeti e durante questo viaggio avevo avuto la fortuna di incontrare molti animali, tra cui tanti elefanti. Quando poi, pochi anni dopo, è emersa la notizia che se il bracconaggio continuerà con i ritmi attuali, gli elefanti verranno estinti entro il 2025, ho iniziato a pensare davvero che il 2025 è domani. E quindi ho iniziato a ritrarli. Quindi non sono dei dipinti rappresentativi di una specie, ma sono realizzati pensando che ciascuno di essi sia esattamente il ritratto di quel singolo soggetto, proprio perché io non so se loro, tutti gli animali che ho incontrato, sono ancora vivi oppure se sono stati uccisi. Per me è molto importante anche riflettere sul fatto che l'uccisione dell'elefante in realtà chiude un cerchio, nel senso che ritorna poi come uccisione sull'uomo. Il bracconaggio d'avorio finanzia il terrorismo internazionale e quindi una discriminazione si connette a un'altra discriminazione, quindi una violenza si riconnette a un'altra forma di violenza. Partendo dai miei dipinti, Natalia ha iniziato a scrivere poesie, pensando a sua nonna. Sua nonna apparteneva al clan dell'elefante. Quindi come figura totemica era strettamente legata anche da un punto di vista ancestrale e familiare all'animale elefante. E da lì abbiamo iniziato questo dialogo molto forte, molto stretto tra poesia e pittura, che adesso è appena stato pubblicato. Si tratta del libro Elephant Woman Song di Natalia Molebazzi e Tiziana Pers, Edizioni Forum. Dunque, questo è un lavoro che abbiamo fatto insieme a Pietro Caglianò per Nuova Didattica Popolare per Guilmi Art Project. E abbiamo pensato di mettere insieme degli occhi di umani, animali umani e animali non umani in una specie di atlante, partendo dall'idea di Abby Warburg, delle mnemosine, l'atlante della memoria. Questo è una specie di atlante dei viventi abitanti di Guilmi che mette insieme gli sguardi, perché tutto il disegno si focalizza poi sullo sguardo degli abitanti, delle persone di Guilmi, così come degli animali, confondendo persone e animali, sia animali cosiddetti da reddito, sia animali cosiddetti d'affezione, in un unico sguardo che si mescola per arrivare a un dialogo uniforme. In sostanza una sorta di comunità di viventi, che va a comporre un'immagine. Questo sembra di un maiale. Quella è una signora di una certa età, invece, vedi?